appuntamento con Europa Europa. Da sempre fedele alla linea del rigore tracciata da Berlino, durante l'ultimo Eurogruppo l'Olanda si è mostrata molto intransigente, così intransigente da irritare persino la Germania. Da Amsterdam non è arrivato solo uno scontato no ai titoli di debito comuni come strumento per alleviare l'impatto economico dell'epidemia, ma anche una ferma, isolata opposizione all'alleggerimento delle condizioni per ottenere un prestito dal MES. Un atteggiamento che ha provocato prima la reazione irata del premier portoghese Antonio Costa, che ha chiesto senza mezzi termini ai Paesi Bassi di chiarire se vogliono davvero restare nell'eurozona o meno, poi l'iniziativa del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, che si è detto risoluto a voler porre il tema dei paradisi fiscali sul tavolo europeo. Allora, cosa sono veramente i paradisi fiscali? Come operano legalmente sotto i nostri occhi? Quanto ci costano? Sono fondate le accuse o sono piuttosto la reazione ad una tensione molto forte che questa crisi ha innescato? L'Europa, ricordiamolo, non ha una sua politica fiscale comune, così come non ha nemmeno una politica sanitaria. Sono attualmente competenze degli Stati. Oggi ne parliamo con Tommaso Faccio, che è docente di diritto tributario alla Università di Nottingham, nel Regno Unito, Senior Advisor di Tax Justice Network, socio fondatore della neonata Tax Justice Italia, associazione che promuove i sistemi fiscali più equi. Vi segnalo un sito taxjustice.net, taxjustice tutto attaccato con la J, giustice ovviamente, il sito dove trovate tutti i dati e le tabelle di cui parliamo. Allora, grazie intanto dottor Faccio di essere con noi. Grazie per l'invito, buona giornata. Allora, partiamo da una vostra tabella ovviamente, si tratta della Corporate Tax Haven, cioè la classifica dei paesi più convenienti per le grandi multinazionali. Leggiamo brevemente: tre stati europei, di cui due dell'Unione nei primi 10 posti, Paesi Bassi e Lussemburgo, rispettivamente al quarto e sesto posto, nel mezzo la Svizzera. All'undicesimo posto c'è l'Irlanda, al diciottesimo Cipro, poi Malta in 23esima posizione. Francia, Germania, Spagna, con gli Stati Uniti, Svezia e Italia, tra il 21esimo e il 30esimo posto. Allora, perché parlate di tax haven per le multinazionali? Cosa intendete voi per paradiso fiscale? Ma cerchiamo di semplificare un tema che è piuttosto complesso. Un paradiso fiscale si può definire come una giurisdizione che o permette o facilita, tramite la sua normativa fiscale, una tassazione molto bassa, spesso vicina allo zero. Per l'indice di Tax Justice Network vengono prese in considerazione l'aliquota effettiva più bassa disponibile nel paese, che spesso è molto inferiore a quella nominale, la presenza di esenzioni e regimi preferenziali, misure o mancanza di misure di trasparenza e misure o mancanza di misure a contrasto all'elusione fiscale. Ecco, ma paradisi fiscali nell'Unione, dunque addirittura li vediamo molto alti nella classifica. L'Unione Europea però ha una sua lista e non troviamo gli stessi nomi. Perché? Ma il compromesso politico all'interno dell'Unione Europea ha fatto sì che non ci fossero paesi membri dell'Unione Europea nella lista, ma nell'Unione Europea ci sono paradisi fiscali, Lussemburgo, Olanda, Malta, Irlanda, ma anche Belgio e Cipro. Questi sono paesi in cui la tassazione effettiva delle multinazionali è molto bassa. Per esempio, in Lussemburgo e Olanda, anche se ci sono aliquote nominali superiori al 20%, le controllate di multinazionali in questi paesi sono soggette a una tassazione effettiva del 10% in Olanda e del 2% in Lussemburgo. Come fanno? Beh, questo grazie a una serie di incentivi e normative fiscali favorevoli. Inoltre, questi paesi permettono l'utilizzo di società condotto. Che cosa fanno queste società condotto? Fanno transitare profitti che arrivano da paesi come l'Italia, la Francia, la Germania, fino ad arrivare ad altri paradisi fiscali. Ultimamente ha fatto la scuola il caso di Google, che ha utilizzato una struttura complessa con società in Irlanda e in Olanda per spostare i propri profitti sulle vendite europee, quindi in Italia, in Francia, in Germania e Spagna, fino a farle arrivare alle Bermuda, dove erano esenti da tassazione. Questo spiega l'incentivo fiscale che spinge i multinazionali, anche italiane, a portare profitti in questi paesi. Questi profitti spesso non derivano da investimenti reali, ma sono solamente investimenti che passano attraverso le cosiddette scatole vuote. Uno studio del Fondo Monetario Internazionale dell'anno scorso sugli investimenti diretti esteri mostra che quasi il 40% di tutti questi investimenti sono fantasma, li chiamano phantom FDI, ovvero passano per queste scatole vuote e non hanno l'obiettivo di creare lavoro o favorire la crescita. Vengono sistematicamente utilizzati come strumento di elusione fiscale delle multinazionali. Il totale di questi investimenti fantasma è una figura mostra di 15.000 miliardi di dollari. Quasi la metà del totale di questi investimenti fantasma passano appunto per il Lussemburgo e l'Olanda. E a Malta e in Irlanda meno della metà degli investimenti diretti esteri è reale. Allora, chi guadagna e chi perde? Anche se si può intuire dai nomi in questo great game delle tasse mondiali. I colossi americani del digitale vengono considerati grandi beneficiari, ma non sono gli unici. Allora, chi sono i big winner e dunque i big loser? Ma i profitti possono spostarli tutte le multinazionali. Diciamo che cambia solo il modo in base alle peculiarità delle multinazionali, l'industria in cui operano, la grandezza e che tipo di asset hanno. Per le grandi multinazionali digitali farmaceutiche spesso viene utilizzata la proprietà intellettuale per fare profit shifting, quindi per spostare ingenti profitti in paradisi fiscali. Per multinazionali estrattive o petrolifere spesso si concentrano le attività di procurement e marketing in paradisi fiscali. Per tutte le multinazionali spesso l'utilizzo di servizi intragruppo, quindi finanziamenti a controllate o assicurazioni e altri servizi precontrollate, vengono svolti da paradisi fiscali. Questo permette di spostare profitti nei paradisi fiscali, spesso in scatole vuote, e di ridurre quindi i profitti in paesi a tassazione elevata, come l'Italia, e questo risulta in un'elusione fiscale, è un danno all'erario italiano e di altri paesi europei. Un danno dunque enorme, ma la Commissione europea ha fatto delle stime specifiche in questo senso? La stima del Parlamento europeo è di circa 50-70 miliardi di euro all'anno di elusione fiscale, questa è una stima conservativa. Uno studio dell'economista Gabriel Zucman di quest'anno mostra però come la perdita in Italia sia equivalente a circa il 20% del totale delle imposte sulle società, quindi un euro su 5 viene eluso. Ecco, 50-70 miliardi che vanno dunque in percentuale più alta nel PIL dei paesi più in alto in quella lista che abbiamo citato all'inizio. I profitti vengono spostati in questi paesi, dove però sono soggetti a tassazione privilegiata. Non si tratta quindi di uno spostamento di tassazione effettiva da un paese a un altro, dove quindi la tassazione effettiva rimane inalterata, ma si passa da un profitto soggetto a una tassazione molto più o meno elevata in un paese a una tassazione effettiva quasi inesistente in un paradiso fiscale. Allora, se ho capito bene, questo drenaggio di risorse è reso ancora più grave dal fatto che non restano nemmeno all'interno dell'economia europea. Esatto, diciamo che non è un gioco a somma zero. Lo studio che Tax Justice Network ha pubblicato la settimana scorsa mostra come l'Olanda abbia avuto un aumento del gettito fiscale di 2 miliardi a fronte però di 10 miliardi tolti alle casse degli altri paesi membri dell'Unione Europea. Ecco, di fronte a tutto questo l'Europa reagisce e come? In realtà si parla da anni di direttive di contrasto a questo meccanismo palesemente ingiusto, ma non si fanno passi avanti. Perché? Cioè, il Parlamento europeo, su suggerimento della Commissione, ha presentato e approvato più volte misure per ridurre l'elusione fiscale in Europa, per armonizzare la tassazione delle imprese in Europa. Ma queste misure vengono spesso bloccate dal Consiglio europeo, che richiede l'unanimità per prendere decisioni. Quindi un singolo paradiso fiscale, con più in generale tutti i paesi che beneficiano da questo sistema, possono continuare a bloccare le riforme. L'esistenza di queste strutture di elusione fiscale, oltretutto, è facilitata da una mancanza di trasparenza e poi abbiamo visto alla fine dell'anno scorso come il Consiglio europeo 12 paesi hanno bloccato la proposta di obbligare le multinazionali a pubblicare i dati relativi a fatturato, profitti, tasse dipendenti, capitale investito in ogni paese in cui operano. E questo dimostra ancora una volta le difficoltà presenti in sede europea. 12 paesi su 28 o 27 oggi, dunque un blocco importante. E dunque è giusto dire anche che non è tanto solo una questione di nord contro sud, magari come sostengono in questi giorni gli schieramenti più ispirati al nazionalismo, piuttosto una battaglia tra grandi capitali, la società, i lavoratori e gli imprenditori che nel continente sono diffusi ovunque. Drenare risorse che in parte vengono disperse nei rivoli delle architetture finanziarie internazionali e che comunque condizionano pesantemente l'orientamento degli investimenti esteri diretti nelle economie europee. Esatto, è uno scontro da una parte tra le multinazionali e il capitale, dall'altra lo Stato, piccole e medie imprese che sono svantaggiate da questa tassazione molto inferiore a quella a cui sono soggette loro, e i cittadini. L'utilizzo di strutture fiscali aggressive compromette inoltre un'equa ripartizione degli oneri tra i contribuenti, la concorrenza leale tra le imprese e condizioni di equità tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Grazie a Tommaso Faccio, lo ricordo, docente di diritto tributario all'University of Nottingham in Inghilterra, senior advisor di Tax Justice Network, socio fondatore della neonata Tax Justice Italia, un'associazione, l'abbiamo detto, che promuove sistemi fiscali più equi. Grazie di essere stato con noi. Grazie mille, buona giornata. Ed è tutto per questa prima parte di Europa Europa, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio e ci risentiamo per la seconda parte dedicata piuttosto ai temi della sanità e del rapporto tra sanità e democrazia. Tra poco. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi, anche su Sky al canale 749 e su TV Sat. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Europa, Europa. Ben ritrovati da Gigi Donnelli a questo appuntamento di Europa, Europa, da Alessandro Schirano che realizza con me questa trasmissione, da Sophie Petitjean di Euronet Plus che ha realizzato una serie di interviste che ora sentiamo. Prima però Enrico Pagliarini ci ricorda quali sono le implicazioni anche per quello che riguardano le app, cioè di fatto il grande tema del controllo, del potenziale controllo digitale sulle nostre vite in tempo di crisi. Prima o poi, comunque difficilmente prima di un mese, anche in Italia ci sarà un'app da installare sullo smartphone per tenere traccia dei nostri incontri e venire avvisati nel caso uno di questi risultasse positivo al coronavirus. Il governo italiano dovrebbe scegliere a breve come procedere, cercando di fare una sintesi fra il parere di due task force, quella coordinata dal Ministero dell'Innovazione, che ha terminato il lavoro, e la neonata per la fase 2. Più pareri complicano però la scelta. Un aiutino arriva dalle indicazioni di Bruxelles. L'app dovrebbe essere usata su base volontaria e dovrebbe aderire ad uno standard europeo per essere pronta quando si potrà tornare a viaggiare. Un'app italiana dovrebbe quindi dialogare con una francese, ad esempio. Un altro aiuto lo hanno promesso Apple e Google, che entro poche settimane metteranno a disposizione aggiornamenti software per rendere interoperabile il Bluetooth di Android e iOS. Apple e Google non faranno un'app, saranno i governi o altre istituzioni a doverle sviluppare con tutte le responsabilità del caso, ma le due aziende che controllano quasi il 100% dei sistemi operativi che fanno funzionare i nostri telefonini